Dunque, siamo all'obelisco, in Piazza della Repubblica, e Lorenzo, che sta aspettando Sara, riceve una chiamata sul cellulare. Lorenzo, who is waiting for Sarah, receives a call on his mobile. In the first dialogue, you'll hear the following new expressions. Ascolti l'italiano, poi l'inglese, di nuovo l'italiano e ripeta nella pausa. Cominciamo. Non sento. I can't hear. Non sento. Mi sente? Can you hear me? Mi sente? Da dove? From where? Da dove? Rumore. Noise. Rumore. Ecco il nuovo vocabolario ancora una volta. Da dove? Non sento. Rumore. Mi sente? Ed ora ascolti il dialogo. Domenica 6 settembre, a mezzogiorno, all'obelisco in Piazza della Repubblica. Pronto? Lorenzo? Sì? Sara? Pronto? Non sento. Sara? Mi sente? Sì. Ma da dove chiama? C'è molto rumore. Lorenzo, I'm at the police station. Please come. Alla polizia?